Mi chiamo Irene Piccardo, vivo anch'io a Genova, in periferia, studio russo da un anno e sono qua in vacanza per vedere come me la cavo con la lingua.